Buon pomeriggio Fujiko Factory, buon pomeriggio Radio Città Fujiko e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Oggi abbiamo in programma per voi un'intervista molto bella, per cui io sono particolarmente entusiasta e allungo anche le vocali. Sabato era in programma, ma ahimè è stato cancellato, mannaggia, il concerto di una band nordirlandese che a me piace tantissimo e che ascolto da un sacco di tempo. E loro sono gli Ash. Sono in giro più o meno dall'inizio degli anni 90 e per questo 2020 hanno fatto uscire il 14 febbraio un album, un best of che si chiama Teenage Wildlife 25 Years of Ash, 25 anni dall'uscita del primo album che si chiamava 1977. Sì, può creare confusione, ma insomma l'album si chiamava 1977. Abbiamo intervistato al telefono qualche giorno fa Ricky McMurray, prima che si sapesse che il concerto sarebbe stato annullato, ovviamente. Quindi noi l'intervista ve la facciamo sentire comunque e speriamo che il concerto venga recuperato il prima possibile. Adesso vi lascio con Someday, un brano tratto da Free All Angels, forse l'album più riconosciuto e conosciuto della band. E speriamo di vederci presto al concerto degli Ash. Per il momento vi lascio all'intervista a Ricky McMurray. Very excited about this interview, so sorry if I like laugh or things like this. Siamo al telefono con Ricky Murray, che è il batterista degli Ash. Per chi non li conoscesse, lo ringraziamo tantissimo e vi ricordiamo che facciamo questa intervista perché gli Ash suoneranno il 29 febbraio al Covo di Bologna. Venite a Bologna per una data che è unica in Italia. A 5 anni di distanza dall'ultimo concerto a Bologna e a 3 dall'ultimo in Italia, cosa vi aspettate dai nostri fan? I'm really looking forward to it, actually. I think we have played Covo, I think it was maybe 5 years ago. We did a co-headline show with We Are Scientists. Beh, non vediamo l'ora di essere lì. Ci siamo stati 5 anni fa per il lancio dell'album We Are Scientists e abbiamo avuto una grande risposta da parte del pubblico. Conosciamo già il Covo Club perché abbiamo suonato proprio lì e siamo molto eccitati anche noi all'idea di tornare. State presentando un nuovo album, è un best of per celebrare 25 anni degli Ash. Si chiama Teenage Wildlife, canzoni dal primo album al 1994. Si tratta dei primi 25 anni. È un inizio, una fine o solo una celebrazione? I think there's going to be more. We've already got there's a new album that's mostly recorded. I think there's just vocals left to do. But we couldn't miss the opportunity to celebrate our quarter century mark with the Teenage Wildlife album. So beh, credo che ce ne saranno molti altri di Andy Ash. C'è un nuovo album che stiamo già registrando, ma abbiamo preferito prima celebrare il nostro traguardo del quarto di secolo con l'album Teenage Wildlife. E ci sono cose dei primi anni, di quando è uscito 1977, ma c'è anche una nuova canzone che si chiama Darkest Hour of the Night, l'ora più scura della notte, che sarà anche nel nuovo lavoro. Abbiamo pensato che facesse già parte comunque dei nostri primi 25 anni e abbiamo anche riarrangiato pezzi dei vari anni del nostro percorso. Ve ne suoneremo un bel po'. Sappiamo che c'è anche un'edizione speciale del vostro album, ci raccontate di cosa si tratta? Yeah, that's right. Yeah, we did this cover. It's called a lenticular cover, which kind of has two images on it, and depending on which angle you look at it, you can see us from 25 years ago, or you can see us from this. Esatto, year. C'è questa copertina che si chiama lenticolare, che è fatta di tre immagini sovrapposti e in base all'angolazione da cui guardi l'album puoi vedere i noi di 25 anni fa o i noi di quest'anno. La prima foto, se non ricordo male, era per un photoshoot del 1995 o giù di lì, per un magazine di musica. E abbiamo proposto noi questa cosa, l'abbiamo realizzata insieme a un team e ci è piaciuto molto il risultato. È una sorta di macchina del tempo. Credo che da un certo angolo, tra l'altro, si possano vedere entrambi i me. Il me di 25 anni fa e il me di oggi, e questo è abbastanza terrificante dal mio punto di vista. Stop. takes its toll. All is out of our control. That's how it will be. So close your eyes, my young bride. Listen to me one last time. There's something I have to say. When your faith turns to despair, always will my love be there. Dopo l'ascolto di Star Crossed, che è un pezzo favoloso del 2004, adesso passiamo a una domanda strana. Credi che la Brexit possa aver influenzato l'arte e la musica del Regno Unito? We're from Northern Ireland, which is, you know, part of Ireland. Ireland is still part of Europe. We definitely feel like a European band as much as a British band. Beh, la Brexit non è proprio quello che avremmo voluto, ma credo che in qualche modo verremo fuori anche da tutto questo. Noi siamo del Nord Irlanda, che è parte dell'Irlanda, che è parte dell'Europa, quindi siamo vicini comunque a un paese dell'Unione e ci sentiamo completamente, assolutamente una band europea, tanto quanto ci sentiamo una band britannica. Continueremo a fare quello che facciamo nonostante questo, ovviamente. Abbiamo molti amici, molte persone che sono preoccupate per quello che sta succedendo, ma insomma è quella che si chiama democrazia. Dopo il tour di Teenage Wildlife, che piani avete per il prossimo futuro? Yeah, we turn around Europe. We've got a lot of festivals coming up this summer as well. That's still getting finalized, but I think we've got a few European festivals. We'll be back out in Europe in the summer as well. I'm not sure if I've seen any Italian ones, but fingers crossed we can get an Italian festival in the summer. Beh, col tour di Teenage Wildlife girovaghiamo per tutta Europa. Ci sono un sacco di festival anche in programma per l'estate, quindi siamo in giro per l'Europa anche nei prossimi mesi. Non credo però ci siano festival italiani, purtroppo, almeno al momento, ma incrociamo le dita e proseguiremo con la registrazione dell'album, a cui stiamo lavorando ormai da circa 2 anni. Abbiamo questo best of ora che stiamo portando in giro, che è fighissimo, ma siamo anche focalizzati sul futuro. Celebriamo il passato, ma siamo anche proiettati in là nel tempo. E invece sapete già quali festival suonerete, se c'è già qualche nome che possiamo sapere? I can't remember the name of any of them off the top of my head right now, but if you check our website, I'm sure there's going to be. Qui mi coglie un po' alla sprovvista, un po' impreparato. Comunque so che sul nostro sito ci sono tutte le informazioni necessarie, ci sono già tutte le date per i prossimi mesi. Allora, ci salutiamo e ti chiederei se ci lasci con un invito per i fan e le fan italiane, i nostri ascoltatori e ascoltatrici. I don't know if you're a fan of the band, definitely get down to the show. It'll probably be our one and only Italian show. We love playing Covo. It's a really exciting vibey club and it's going to be a good night. So we'd love to see you there. Se siete fan dovete assolutamente venire perché è una data unica italiana. Poi noi adoriamo il Covo, siamo molto carichi, siamo legati ai fan italiani. Sarà una bellissima serata e ci piacerebbe trovarvi tutti là. So thank you very much. I think we are going to close this interview with the new song from Teenage Wildlife, 25 Years of Ash. So I don't know what to say. Thank you very much, Ricky. And okay, thank you very much. Good to talk to you. Yeah, I'll see you at the concert then. Yeah, absolutely. Thank you. Yeah, come and say hi. We'll see you. Thank you very much. Excellent. Thanks very much then. Bye-bye. Bye. Bene, chiudiamo l'intervista con l'ultimo pezzo, il nuovo pezzo, l'inedito, che si chiama Darkest Hour of the Night.